Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. È aperto! Suena. Fai presto, chiudi, non voglio vederti, non dobbiamo vederci, è il patto. Ho capito, ma dove andiamo? Di là, seguimi. Dammi la mano, va, che se stai vicino a me arrivi sano e salvo. Qui accanto c'è la mia stanza, che poi non è proprio la mia stanza, è la camera di un mio amico che è partito militare e me la lascia per un po' occhio. Guarda, in realtà c'è solo il materasso, mi dispiace, e sta anche a terra. Attento, siamo arrivati, quindi vai giù, piano, ecco. Beh, ti sei ammutolito? No, no, ho portato una bottiglia. Grazie. Beh, se me la passi la metto qui al sicuro. Ecco. Senti. Sì? Posso fumare? Certo, ma è questo che volevi chiedermi? No, non so come chiamarti. Tutto qui? Tutto qui. Anna, mi chiamo Anna. Anna, ok Anna, allora tu sei bionda con gli occhi celesti. Acqua. Castana, rossa e ne, ricci, lunghi, occhi celesti. Fuochino, ma lunghi gli occhi o i capelli? Ah, però mi dispiace deluderti perché io ho 2 nasi, come i quadri di Picasso. Cazzo, allora vale una fortuna. Senti, tolgo la giacca e le scarpe. Certo, sei libero, fa come vuoi. Tutto tranne... Accendere la luce, se hai ragione, è il patto e ogni patto ha le sue regole. No, no, basta storia da nulla. Grazie. No, hai ragione, scusa. Poi, sai, non lo so se me la sentirei... di baciare una con 2 nasi, mi fa un po' impressione. Magari vuoi sapere come mi chiamo? No. No? Scusa, che importa, stiamo insieme solo una notte. Una notte di mezzo inverno. Veramente appena iniziato. Sei fiscale. Però non mi dispiace se ti senti strano. Un po' un fantasma. Ti stressi facile, non resisti neanche poche ore. Un nome. Un nome non è una mano, né un piede, un braccio, il viso, né nessun'altra parte di un uomo. Da via il tuo nome, e in cambio del tuo nome, che non è parte di te, prendi me, intera. Romeo. No, ti do io un nome, Salvo, tu sei Salvo stanotte. Sembra una presa per il culo, ma suona bene. Non è vero, non ti prendo per il culo, Salvo era mio compagno del liceo, magro magro, fissato con Ugo von Hofmannsthal, sai, il folle e la morte. E magari c'aveva pure 2 lunghi canini e viveva nei Carpazi. Vabbè, in fondo tu sei arrivato di notte, te ne vai all'alba. No, sul serio, quando ho telefonato alla radio... La tua voce mi ricordava qualcosa. Salvo von Dracula. Oh, sei tu che hai bisogno di un nome. Io non lo so perché ti ho cercato. Io ti volevo conoscere, ma non vedere, tutto qui. E neppure chiamare per nome. E neppure chiamare per nome. Stanotte è il mio compleanno, voglio cominciare bene, in modo diverso, senza fare casino. Tutto qui. Tutto qui. Fai l'eco? Un lampo senza tuono. Che strano, deve essere caduto lontano. Ti sento strana. Sei delusa? Vuoi che vado via? Ti va se beviamo un po' il tuo vino? Vai! Ci vuole un brindisi! Per tutti noi che siamo ricci e colorati e vivi e veloci e sinceri. Sembra una poesia. È vero. Lo diceva sempre un mio amico. Sì, sembra una poesia. Ti ho fatto venire tristezza? No, sono io, È che è un anno di merda. In effetti. Mi guardo in giro negli occhi dei compagni e non so neanche più se è giusto chiamarli così. Io sento tanta stanchezza. Sento urla assordanti che si rompono nell'angoscia ogni giorno. La pesantezza di chi non spera più di poter cambiare. La barca dell'amore si è spezzata contro il quotidiano, dicevano. Ma non parlava d'amore. Lui pensava alla sua vita. E anch'io ho paura di abituarmi. Soprattutto io inizio a sentirmi vuota dentro, come se stessi sotto una campana di vetro che mi separa dal resto. E invece io ho bisogno di trovare la mia vita oggi, subito. Perché se io devo pensare che qualcosa cambierà, forse fra 50 anni, però intanto io devo morire un po' ogni giorno. Beh, sai che ti dico? Che io non voglio aspettare. Quest'anno deve finire stanotte e per sempre. Tanto il tempo è una convenzione. Dai, fammi sentire un po' la tua voce. Sono il conte Sono il conte Salvo von Hoffmann Katz. Vivo in un modesto castello dei Carpazi, 100 camere e una cucina. Mi sono dissanguato per rimetterlo a posto, capisci? Così pensavo di trasferirmi in Groenlandia quanto prima, per non dover scappare sempre di fronte ai primi raggi del sole. Poi, per gli altri 6 mesi di oscurità, pensavo a qualcosa di più a sud, tipo l'Antartide. Così non dormi mai e diventi matto. Ma cara, come vuoi che stia un vampiro con insonnia a caccia di fanciulle con due nasi al buio, fra i pinguini? Ma ci sono le foche o i pinguini in Antartide? Non lo so, i pinguini. Anna, non ti chiami così, vero? No. Quanti anni compi? 20. Cos'ha la mia voce? Non lo so, qualcosa di diverso. Io ti ho sentito vivo in un mondo di morti. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova, prova. Picchio, ma che stai facendo? Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre. Picchio, scendi da quella cazzo di finestra, Picchio. Prova, uno, due, tre, prova. Uno, due, tre. Sono un uccello migratore, non si vede che sono un uccello migratore. Guarda, guardami. Gli altri sono già partiti. Ti prego, non fare così. Io sono in ritardo, ma se vuoi aspetto. Perché piangi? Perché piangi? Per quello stronzo d'Andrea, vero? È per lui. Tu potresti stare con me. Io sono più bello, sono più simpatico, sono pure più intelligente. No, scherzo, scherzo, scherzo, scherzo. Andrea è un amico. È un fratello, anzi lui direbbe un compagno. E nella misura in cui tu sei un compagno, io non ti rubo la donna. Se tu sei un compagno, io non ti rubo la donna. Nella misura in cui, nella misura in cui tu... Che cazzo l'ho inventato? Nella misura in cui mi fa schifo, nella misura in cui mi fa schifo, nella misura in cui... Ti prego, Picchio, scendi. Dai, dammi una mano. Bravo. Ho freddo, Sara, ho freddo. Ho freddo. Resti un po' con me? Sì. Ma se non salivo su, che cazzo facevi, Picchio? Che cazzo facevi, eh? Per fortuna ho dimenticato il libretto del motorino, sennò che cazzo facevi? Ti buttavi, Picchio, ti buttavi! Scusa. Scusa, scusa, scusa, scusa, non lo faccio più, non lo faccio più. Scusa. Te lo prometto, non lo faccio più. Però tu sorridi, eh? Sorridi. Mani tu. La tristezza non c'è più. Parliamo notti intere, cazzo. Notti intere di quello che sentiamo. Non sei solo. Non più di me o di mille altri. Alla radio. Alla radio a quel compagno che raccontava del raduno di Villa Panfili, ricordi? A quello che diceva che non esistono isole felici. Che era lì dal mattino e ancora aspettava qualcosa per poter dire di aver passato una bella giornata. Beh, quello aveva ragione. Così ci sentiamo tutti. C'è l'esigenza di stare insieme, ma non basta a vincere quello che bisogna vincere. Io a quello gli avrei risposto facendola buona, per consolare un po' anche me. Ma tu non gli hai fatto nessun discorso, gli hai solo letto una poesia. Mattina d'autunno nella vigna. Quella. Ceppo per ceppo. Fila per fila i ceppi si ripetono. Tutte le piogge che cadono si ripetono. Non me la ricordo. Piano, su. Sul suolo, sull'albero, sul mare. Rinnovamento dei miei giorni. Simili gli uni agli altri, differenti. Gli uni dagli altri. Il ripetersi della neve che mi sbarra il cammino. Le tue lacrime mute, il tuo sorriso, mio amore. i tuoi scoppi di riso, il ripetersi del tuo riso. Mattina d'autunno nella vigna, fila per fila, nodo per nodo, i ceppi si ripetono. Il miracolo del rinnovamento, mio cuore, è il non ripetersi del ripetersi. Oh, meno male, me lo tieni un attimo. Grazie. Beh? Cos'è, non parli? Ti hanno mozzicato la lingua? Sta male, fa cose strane. Ma chi, Andrea? Ah, mi sembrava strano. Picchio. Ah, picchio. Ma non ti devi angosciare, picchio è normale così. Ma lo sai che ha fatto ieri? Ha preso il ritratto di Lenin. Quello che Andrea ha sul letto. Sì, l'ha tutto tagliuzzato e con le varie tessere ci ha fatto un puzzle. Poi le ha ciclostillate e corso in facoltà, ha cominciato a distribuirle gridando «Sparpagliamo il centralismo! Sparpagliamo il centralismo!» Un successone. Ma sarà vero che disinfetta, pizzica? Ti piace? Chi? Dai che picchio ti piace. No. Senti, e la faccia di Giuliano quando ha sentito del puzzle? E di sparpagliamo il centralismo? Fermi tutti. Ha cominciato a parlare del dadaismo e di un altro ismo che adesso non ricordo e poi se ne esce con il pensiero spettacolare indurrà gli individui a mettersi al servizio dell'ordine costituito. Oddio, è odioso, perché capito, lui ti deve sparare Deborah a memoria, non ti può dire che sei un coglione o un reazionario come farebbe qualsiasi altro compagno. Dai su, fammi Giuliano. Dai, ti faccio Giuliano. Sì. Il pensiero spettacolare indurrà gli individui a mettersi al servizio dell'ordine costituito. Se ci vede ci ammazza. E fa bene. Comunque per me, prima di sentirsi un compagno, un maschio e anche piuttosto misogino, prima di tutto lui si sente quello che ha fatto la scuola normale superiore di Pisa. Soprattutto superiore. Poverino, gli staranno fischiando le orecchie. Vabbè dai, fammi dare una mossa che tra un'ora c'ho lezione. E poi alle 7 vado da Lano. Ah, Donatella, mi dai gli appunti di ieri? Io i tuoi appunti? Sì. Esatto. Ti volevo dire, devi scrivere bene, non si capisce nulla. Contro quelli che pensano, io sono questo, io sono quello, e che pensano... Ma io scrivo bene che pensano così in riferimento al loro passato e al loro futuro. Bisogna pensare in termini incerti, improbabili. Io non so cosa sono, nonostante tutte le ricerche e i tentativi compiuti, non narcisistici, non edipici. Dai, continua. Oh, il problema non è quello di essere in questo o in quell'umano modo, ma piuttosto di diventare inumano, anomalo. Non diventare come una bestia, ma disfare l'organizzazione umana dei corpi. Un genio. Sarà un genio come dici tu, ma mi fa venire l'angoscia. Vabbè, angoscia, vai a lezione e scrivi bene. Oh, ma io scrivo bene. No, perché sennò poi dobbiamo chiedere lumi a Giuliano. Sì, così poi. Entro le 5 dobbiamo lasciare tutti l'appartamento, ve lo ricordate? Sì, ce lo ricordiamo, senza sto tono. Ma no, Donatella. Ma che c'è? Ma che c'è? Scusa, loro la riunione la fanno in salone o in cucina, voi fate come vi pare, io sto in camera mia, non vi guardo. No, Donatella, non cominciare a fare come cazzo ti pare, lo sai da una settimana, hai detto che per te andava bene, ora non fai come ti gira. È una faccenda delicata, ce l'ha chiesto Giuliano. Ma lo senti come parla? Ma chi è Giuliano? Carlo Marx? Lo fa sempre come cazzo gli pare, prima dice una cosa e poi se la rimangia, mo dico non te ne puoi andare a scopare da un'altra parte. Ma lo sai che sei proprio squallido? Tu vorresti fare il medico, prenderti cura degli altri, ma lascia perdere. Ma che cazzo c'entra? No, c'entra invece, c'entra e come. Sei sempre appresso a Giuliano, non guardi più in faccia a nessuno. Guarda, questa è matta. Io sono matta? Per favore gli dici qualcosa tu che è l'uomo tuo. Ah, io non c'entro, vedetevela voi. Ah, io non torno a casa, vado a tenere Nano. Sarà, non ti far scappare niente sulla riunione. Con un bambino di 4 anni. Oh, Andrea, sei diventato paranoico, c'ha ragione Donatella. Sì, ma Alvise e Giovanna stanno sempre là a farti la lezioncina, quei due, pare che hanno deciso di salvarti. Ma non gliene frega niente di salvare me. Casomai il golf di Kashmir. Ma dai, che stava buttato là su una sedia. E poi non c'ho le piattole. Ascolta, ascolta questa. L'altra sera sono tornati dopo qualcosa, che ne so, una festa. No, no, ma che feste? Loro non fanno feste, no? Loro fanno le riunioni di redazione. Vabbè, sì. E io e Andrea ci siamo messi a dormire sul divano e lui si era messo il golfo di Alvise. Sembravano due matti. Ci siamo svegliati perché li sentivamo litigare sottovoce su e giù per la casa. Alvise sbatte il frigorifero. Si sono mangiati il camembert. È lei che cercava di farlo ragionare. E che? Piace solo a te, lo ricompriamo! Sì, ma se lo sono finito tutto. E poi la tragedia. Si è accorto del maglione. Proprio quello di cashmere a sei fili di Harrods. Cioè, ti caghi sotto dal freddo in quella casa, che dovevo fare? Neanche i soldi per la stufetta sprecano i due rabbini. Lei cercava di calmarlo con una mano sulla bocca. Shh, fai piano, così li svegli. Ma chi se ne frega? Ma svegli, nano. Non l'hai visto? A nostro figlio l'hanno messo a dormire vestito. Neanche il pigiama gli hanno messo. Ma fa freddo, forse è meglio così. Perché li difendi? Non è per il formaggio in sé. È che non tollero questa loro logica dell'appropriazione. L'ideologia del tutto e subito. Vabbè dai, è un po' così, però non è cattivo. Sara, ti fai fregare, questi sono i peggiori. Questi sono quelli che fanno tanto i compagni. E poi, ma poi voglio dire, ma l'hai visto lui con quel tono paternalista? Un borghese di merda che scrive articoli vomitosi sul movimento e poi che fa? Si nasconde dietro le citazioni. No, senti, senti che scrive su di noi quello che non è cattivo. Chi potrà illuminare la loro violenza? La loro morale si riduce a un buco di pallottola, perché non amano in se stessi che la rivolta, il gesto esemplare e la logica irrazionale della riappropriazione diretta. Ma questi mediocri ribelli vedono già il fallimento delle loro esili ragioni. Non andranno in nessun luogo, non faranno nulla. Questo è quello che non è cattivo. Ma che cazzo c'è da ridere? Volete mettere a posto? Donatella, metti a posto! Ma vai a mettere a posto tu! Io sto andando! E vai! Fabio, dai, dammi una mano a mettere a posto. Vorrei trovarla l'allera. Sapessi io. Quest'erba prodigiosa, vai. Qualunque cosa incontri, la fa meravigliosa. Vorrei trovarla l'allera, ma non solo per me. E avendola trovata, piantarla nel bidet. Picchio, oh, dammi una mano, dai, forza, sbrigati. Ok, perfetto così, perfetto. Vai, così. Vai. Senti, quando è che torna? 20 minuti. Allora ne facciamo una secca a 15. Vai, racchette? Ce l'ho io. I libri? Prendi i libri di Fabio. Aspetta, aspetta, ci facciamo la rete con questi, eh? Aspetta. Sì, sì. Non ho trovato quelli di Fabio, ho trovato quelli di Giuliago. Ma che sei scemo, quello si incazza con me. Cazzo te frega, dai, gioca. Picchio, ma perché non ci troviamo un tavolo professionale? Come? Come, con la scusa della spesa proletaria, no? Ma dai! Ah, c'è paura di beccare Berlinguer fuori dalla porta del negozio. Fuoco di paglia, oscura marmaglia, provocatori, untorelli, fascistelli, 19isti, 19elli! Sei un poeta, Picchio, perché criptofascistelli? Oh, ti sei intrippato con sto cripto, eh? Ma è subdolo, no? Non ce li vedi tutti gobbetti untorelli che escono dalle fogne e ti attaccano la peste? Coi capelli untelli. Ah, che immagine schifosa. Realismo socialista. Estremismo, malattia infantile del comunismo. Varicella, scarlattina, ti copri di bolle e sei come prima. Wow. Gioca, va, scemo. Okay. Allora parto io, una secca qui. Oh, ma batti sempre te però, eh. E batto io perché le racchette le ho portate io, forza. Vabbè, vai. Senti, stavo a pensare una cosa però, no? Voi parlate d'avanguardie, ma dove stanno sta avanguardie? Lo dici a me? Quali avanguardie, dove sono? Guarda che il nodo da sciogliere è proprio questo. O la sinistra rivoluzionaria trova un sistema per aumentare i propri militanti, o chiedere ai inesistenti avanguardie di prendersi le loro responsabilità, diventa un discorso senza senso. Perché l'avanguardia sono compagni come tutti gli altri, sentono il peso delle loro contraddizioni, non vogliono essere colpevolizzate. Oh, io mi sono rotto di essere avanguardia tanto quanto gli indiani metropolitani che sono sempre ironici o divertenti, o le compagne femministe che debbono occuparsi di liberazione. A Picchio, io mi sono rotto i coglioni di tutto il movimento. Molto ho detto. Ma sai che c'è? Che io appena c'ho un po' di soldi mi prendo un biglietto solo andata per il Perù. No! La Bolivia! Sì, sì, e mentre tu stai qua a marcire a giocare a ping pong, io me ne vado alla Fiesta del Sol sul lago Titicaca. No! Mi faccio i tuffi a 3000 metri, Picchio! Sprofondo nelle montagne! Ti sale! Non lo puoi fare. Me lo faccio e come, Picchio? Ciao, Picchio. Ma Giuliago, te lo dà il permesso? Beh... Ma vaffanculo, cazzata, che fai? Prendi per il culo. No, guarda che sono serio, eh. Oh, se lo lasci nella merda, eh. Scusa. Chi gliele fa le molotov, Andrea, eh? Col giornalino? Scherzi. E poi come fai ad andare da lui e dire, oh, Giuliago, senti, io dovrei andare a fare il rivoluzionario in Salamoia. Vado 2 giorni a settimana, poi però ritorno. Che dici, eh? Icaro, Icaro, ambiguo, perso in un dedalo. Ma la smetti di prendere per il culo? Io voglio imparare il mapuche, il quechua. Oh, l'eleutero, come cazzo si chiama? Eleutero dactylus qui. È la storia del l'ambiguità del richiamo, il doppio messaggio maschio-femmina. Cazzo, Icaro, ci hai spaccato le palle per settimane col cocqui ranocchietta messicana. Portoricana, picchia, portoricana. E comunque non li studio più gli animali chiusi nelle gabbie degli zoo, è contro i miei principi. E pensi che non ho il coraggio di dire a Giuliano che... Oh. No, no, dai. Oddio. Non ti puoi sentire male tutte le volte che stai a perdere, no, però, no, no, Icaro. No, no, no, questo è il pancreas. Lo so, cioè, c'è il pancreas lì, è normale. No, no, aspetta, aspetta, la milza. Anche lì c'è la milza. No, lo picchio tra il pancreas fammi sentì, e la milza. Fammi sentire come stai. Io non lo tocco. Vabbè, non ti tocco, sento soltanto. Aspetta, no, mi dice che non è una malattia. No, non è una malattia. No, picchio. Non è una malattia. Prendi da te, picchio. Hasta la muerte sempre, compagno. Prendi da te, picchio. Metti a posto i libri di Giuliago, che si arrabbia. Oh, devo andare alla radio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Vigliacco. Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato. Dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma che è sto casino? E non è una malattia. E non è una malattia. E non è una malattia. Malattia, oh no. No. All'ingresso del metro c'è un cartello con un no, dice che non pagherò. Oh no. Cioè? Natura morta. Le molotov? Tu mi sembri un bandito. Babietto, oggi per te abbiamo biscotti. Biscotti aperti e biscotti aperti. Biscotti? Non c'è altro? Ma quelle picchio, aspetta. Pelati, pelati, pelati, marmellate di visciole. E poi c'è il tè. Sono solo cose papposi. Dov'è l'alcol? Scherzi, era troppo in alto, Fabio. Alzani, no? La cioccolata? Ma quella non c'era. La Nutella? L'ho persa per strada. Hai armato tutto sto casino per ste due cacate. Ma facci tu la prossima volta, non è che avevo tutto sto tempo di scegliere. Vai là, vai là. Oh, ma che ti zompetti? Appena accendi lo straccio la devi lanciare subito, sennò esplode in aria e ti va a fuoco il braccio, chiaro? Ripetimi tutti i passaggi. Vai. Faun. Boom. Boom. Niente male, però non a rallentatore. Accendi lo straccio, la lanci subito, se no esplodi in aria e ti vanno addosso le schegge, chiaro? Ma io corro veloce. Tu corri veloce. Oh, questi fanno abbastanza schifo. Quello è picchio. Dice, quando ricordano sua nonna, che gli dava tipo per merenda. Cazzo, come sono secchi. Sì. Non riesco proprio a buttarli nella... Nella gola. Bravo. Avanti, ricapitoliamo. Allora, prendo una bottiglia ben pulita e asciutta. Sì. Preparo un ramazzo di stracci di stoffa. Giusto. Vanno bene pure i tovaglioli in una pizzeria. Va benissimo il ramazzo. Bene. Poi nel diserbante. Sì. E là. Oh no. Oh. No, non ridere, Fabio, guardami. M di movimento. I di Icaro. Icaro, non me lo ricordo mai. Io smetto, me ne vado. No, vieni qua. Guardami, concentrati. S di sugna. Miscela! Sì, sì, sì. Basta, zitto, lavora. Aspetta, no? Vai. No. Ah. No, 2cc, 2cc, te lo dico sempre, 2cc. 2cc. Quanto ci devi mettere? 2cc. Bravo, avanti. Ok. Così va bene. Perfetto. Poi del diserbante. Sì. O la trementina come acido. O il tuo liquido per sviluppare le foto, che è perfetto. Non esiste. Ricapitoliamo che è meglio. Sì, che è meglio. Ah, è semplice. Prendo l'imbuto. Sì. Verso 2 dita di diserbante. Sì. Poi aggiungo la benzina. Sì. E chiudo il tutto con un bello straccio che sia ben inzuppato, che fa da miccia. Complimenti. Fabio. Il nodo. A Ramazzo. Devi fare il nodo a Ramazzo, Fabio! Devi fare il nodo a Ramazzo, che fai lanci così! E se invece vogliamo fare il botto, è quello grosso che utilizziamo, eh? Invece se vogliamo fare il botto, prendiamo il polistirolo, ce lo sbricioliamo dentro e facciamo il napalm! Però devi stare attento, perché è tossico, disattacca la giacca e fai la fine del pollo alla diavola! Finalmente il mio nuovo compagno sostituto artificiere! Guarda che ti do in dotazione! Mettiti la giacca, levati la macchinetta. Ma anche no. Levati la macchinetta. Forza. Provala. Fatti vedere. Sei bellissimo! Senti, allora nella tasca destra entrano due bottiglie grandi di vino, nella tasca sinistra tre piccole di Coca-Cola. Occhio quando sali le scale che ti esce il liquido e fai la fine del pollo alla diavola! Compagno artificiere, buon lancio. Non le tiro. Cosa? Non le tiro, non ci penso proprio. Io le faccio, poi se la vedono andrei gli altri compagni. Io ho la macchina fotografica, i rullini, devo fare le foto. Fai le foto, vai. Ehi. Beh, ma che è sto casino? Diglielo a lui. Ma diglielo a lui, oh. Alle 5 c'è la riunione, dobbiamo lasciare l'appartamento, ve lo ricordate? Sì. Ehi, ti ho preso il tè. Ma dai, mi hai preso il tè. Sì, l'ha preso lui. Che carino, grazie. Vabbè, io vado a fare un po' di pasta. Sì, fanni un chilo che ho fame. E col tonno. Col tonno? Mm-hmm. La vuoi anche tu, Fabio, col tonno? Ma anche no, grazie. Beh, allora, che v'hanno detto? C'era la cassiera che c'aveva più caga di noi. Però ho preso una bottiglia d'olio, l'ho spaccata per terra, sai, mentre ci davamo per coprirci la fuga. Astuto. Lì per lì, cioè, erano indecisi, sembrava una rapina. È entrato Icaro con il fazzoletto sul naso. Parla veloce Zeus, si capisce proprio il cazzo. Ha farfugliato qualcosa. Che gli hai detto? Che gli hai detto? Che gli ho detto? Paga Andreotti! Sì, paga Andreotti, gli ho detto paga Andreotti. Allora, fum! Sono solo guardato, una vecchia si è messa a ridere. Avrà pensato a uno scherzo di carnevale. Sì, sai, io non sono credibile con sta faccia. Infatti poi si sono girati, hanno guardato me e io gli ho dovuto gridare spesa proletaria! Spesa proletaria! Così hanno capito la valenza politica. Mm-hmm. Almeno credo. La valenza politica. Sì. Cazzo! È andata via la luce. Donatella, vai a vedere fuori dalla finestra, vedi se è un problema del palazzo? Ah, e perché non ci vai tu? Perché te lo chiedo per favore. Grazie. Oh, dove stai? Oh, c'è scopato. Io? No, giura. No, giuro. No, qui c'è la luce. Fabio, vai a vedere il contatore. Sì, cara. Sì, vai a vedere, Fabio. Senti, Donatella, io... Prendi le candele, Icaro. Sì, prendo le candele. Al compagno che diceva «E che ce ne importa dei poeti russi?» Io vorrei rispondere moltissimo, ce ne importa. Ma chi sono questi poeti russi? Sono Bloch, Jesenin, Majakovskij, Pasternak, in ordine di morte. Bloch muore di leucemia, Jesenin, Majakovskij suicidi, Pasternak muore isolato. Tutti hanno partecipato alla prima rivoluzione socialista del mondo. Questi sono grandi poeti non soltanto perché ci hanno tramandato bei versi, no, ma perché ci hanno insegnato l'incapacità di rassegnarsi. Incapacità che appartiene a tutto il genere umano degno di questo nome. Le cose che loro hanno scritto bucano gli anni che li separano da noi e parlano ai rivoluzionari, ai comunisti, a noi ora, e gridano quello che c'è di umano nella rivoluzione, ma anche quello che di umano la rivoluzione trascura, e quando lo trascura si inaridisce. Che scherzi che gioca la storia. Proprio un uomo che sembrava superato, proprio quell'uomo ci parla con la voce di tutti, oltre il suo tempo che non aveva saputo sopportare. E ci arriva distinta, viva, lucida, mentre il coro degli ortodossi di allora giace sotto metri di neve russa. Allora mi viene da pensare che quell'uomo è figlio della rivoluzione, sì, e che la rivoluzione genera grida di umanità e poesia. La rivoluzione partorisce un'enorme aspettativa di rose, anche tra chi non milita armi alla mano. Non è dalla violenza della rivoluzione che scappa Jesenin, no. Lui scappa dalla distruzione della speranza nella rivoluzione. Il contatore è a posto. Dio buono, ci hanno tagliato la luce. E vaffanculo. Lo fanno. È successo anche pochi giorni fa ai compagni di Via dei Sabelli. Ma dai, se non paghiamo. No, non è vero, noi paghiamo quello che è giusto. Ognuno secondo le proprie capacità. È un fatto politico. Beh, evidentemente non funziona. Andrea, hanno il coltello dalla parte del manico. Puoi dire quello che ti pare. Sarà a ragionare così, allora non fa più niente nessuno. Invece no, l'autoriduzione è un'iniziativa molto sentita Andrea, a livello Andrea, popolare. Andrea, no. Dobbiamo alzare il livello dello scontro, fare un salto qualitativo senza mediazioni. Certo. Non possiamo continuare a rispondere in modo difensivo coi sabotaggi, in una fase in cui assistiamo allo stato di polizia che spara ogni giorno. Cioè, c'è chi si espone, compagni che rischiano sulla propria pelle. Giusto, come Fabio con la spesa proletaria, dovevi vedere quanto era veloce, non l'ha visto nessuno. Gengangere. Ma che? È Spettri di Ibsen, nel titolo originale. E a lui fa ridere se è fatto così. Vado ad aprire. No, no, aspetta, potrebbero essere già loro. Oh, non li potete vedere. Che è una battuta, non si vede un cazzo. Scusa. La luce? Tagliata. Tanto per la vostra riunione non cambia granché, anzi. Gli altri sono andati via. E Giuliano? No, c'è stato un po' di ritardo per via del buio improvviso. Va bene, e così... tieni, falle sparire. Quante sono? 2 più i proiettili. Dove ci mettiamo? In cucina? Sì. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao. Questa ce la beviamo stasera dopo la riunione. Io non torno a casa, vado a tenere Nano. Ora Nano quanti anni ha? 4 e mezzo. Ne aveva 2 quando sono arrivata. Quando sei scesa dalle montagne contavi tutto in lenticchie? Beh, lo sai, lassù stiamo ancora al baratto. Nano ha già 4 anni. Giorgia ne compie 3 fra poco. Ad aprile, il 3. 3 il 3. Quant'è che non la vedi? È 1 anno quasi. E chissà per quanto ancora. Vabbè, ora dovete andare via. Stanno per arrivare e non li potete neppure vedere. Molto presto non verrò più neppure io. Mi dovrete dimenticare. Cancellare. Gengangere. E piantala! No, no. Ha ragione Icaro. Diventeremo spettri. Via. Andiamo, va. Andiamo. È lui. Stjepan. Anjenkov. Che gioia. Stjepan! Buongiorno, Dora. Già 3 anni. Sì, 3 anni. Il giorno che mi hanno arrestato venivo a raggiungervi. Sono contento, Stjepan, che il partito ti abbia mandato qui. Era necessario. Soffocavo. Agire, finalmente lo ammazzeremo, vero? Sicuro. Dovrei essere stanco dopo questo lungo viaggio. Non sono mai stanco. È tutto pronto, Boria? Da 1 mese 2 dei nostri studiano tutti gli spostamenti del Granduca. Dora ha messo assieme il materiale necessario. Il proclama è stato scritto? Sì. Tutta la Russia saprà che il Granduca è stato giustiziato da una bomba, lanciata dal gruppo d'assalto del Partito Socialista Rivoluzionario per accelerare la liberazione del popolo russo. La corte imperiale, inoltre, saprà che siamo disposti a valerci del terrore finché la terra non sarà restituita al popolo. È tutto pronto, Stjepan. Il momento si avvicina. Che devo fare? Da principio aiuterai Dora. E poi? Poi vedremo. Devi essere pronto a sostituirci in caso. E devi mantenere i contatti con il comitato centrale. Chi sono gli altri compagni? Conosci Janek? Janek? Kaliaev. Lo chiamano anche il poeta. Non è un nome da rivoluzionario. Lui pensa il contrario. Dice che la poesia è rivoluzionaria. Solo la bomba è rivoluzionaria. Dora, credi che saprò aiutarti a costruirla? Sì. Basta stare attento a non rompere l'innesco. È così che è morto chi ti ha preceduto. Perché sorridi, Stjepan? Io sorrido. Sì. Mi accade a volte. Janek, non sei più vestito da venditore ambulante. Sei diventato un gran signore. E come sei bello. Già. Io odio travestimenti. Bori avrebbe potuto trovarmi qualcos'altro. Attrice. Il mio cuore è semplice, invece. Sei così carina con questo vestito. Carina. Mi piacerebbe esserlo, ma non ci penso neppure. Perché? I tuoi occhi sono sempre tristi. Devi essere allegra, devi essere fiera. La gioia e la bellezza esistono ai sereni lidi ove il mio cor ti volea. Eterna estate, amori, io mi godea. Ricordi quei versi e sorridi. Perdiamo tempo così. Voglio lanciare la bomba, io. No, gli attentatori sono già stati scelti. Te ne prego, non sai che cosa significhi questo per me. No, gli ordini sono ordini. Neanche io la lancio e aspetto qui. Sono ordini duri. E chi lancerà la prima bomba? Io. Tu. Ci vuole esperienza. Esperienza? Nessuno l'ha mai lanciata 2 volte. Stjepan, tu starai in strada. Mentre Janek spierà l'arrivo della carrozza, tu passeggerai sotto la nostra finestra e stabiliremo un segnale. Intanto io e Dora aspetteremo il momento esatto per lanciare il proclama. Con un po' di fortuna il Granduca sarà fatto fuori. Borgia, se non riusciamo, dovremmo imitare i giapponesi. Che intendi dire? Durante la guerra i giapponesi non si arrendevano, si suicidavano. Per suicidarsi bisogna amarsi molto. Un vero rivoluzionario non può amare se stesso. Un vero rivoluzionario? Perché mi dici così? Che ti ho fatto? Non mi piace chi entra nella rivoluzione perché si annoia. Stiepan! Sì, lo so, sono brutale. Ma per me l'odio non è un gioco. Non siamo qui per ammirarci a vicenda, siamo qui per raggiungere il nostro scopo. Perché mi offendi? Chi ti ha detto che mi annoiavo? Ma non lo so, tu fai come ti pare. Ti piace fare la parte del venditore ambulante, reciti versi. E adesso questa storia del suicidio. Tu non mi conosci, fratello. Io amo la vita, non mi annoio. Sono entrato nella rivoluzione perché amo la vita. A me non piace la vita. A me piace la giustizia che è al di sopra della vita. Ciascuno serve la giustizia come può. Dobbiamo accettare di essere diversi e volerci bene se ne siamo capaci. Non è possibile. Allora che fai qui in mezzo? Sono venuto qui per ammazzare un uomo. Non per amarlo né per vagliarne la diversità. Basta! Ricordate chi siamo. Noi siamo fratelli, accomunati da un'unica impresa. La soppressione dei tiranni, la liberazione del popolo. Noi uccidiamo assieme e nulla può separarci. Io ho bisogno di essere amato da tutti voi. Ho lasciato tutto per l'organizzazione. Come posso sopportare l'abbandono dei miei fratelli? A volte ho l'impressione che non mi capiscano. Ti vogliono bene, ti capiscono. Ma Stepan è diverso, credo non voglia bene a nessuno. No. Io so quello che pensa. E vorrei spiegare a tutti loro che non sono straordinario. Mi vedono un po' matto, troppo spontaneo. Eppure io come loro credo all'idea. E come loro voglio sacrificarmi. Posso essere anch'io taciturno, efficiente, discreto. Ma la vita continua a sembrarmi meravigliosa. Amo la gioia, la bellezza. Per questo odio il dispotismo. Come farglielo capire? La rivoluzione, sì, la rivoluzione senza dubbio, ma la rivoluzione per la vita. Per dare una possibilità alla vita, capisci? Sì, e tuttavia noi stiamo per dare la morte. Sei coraggioso, Janek. Tu ridi, ti esalti, vai incontro al sacrificio tutto pieno di fervore. Ma tra qualche ora dovrai uscire dal tuo sogno e agire. Non avrò debolezza. Avrai abbastanza coraggio. Ma in prima fila tu lo vedrai. Soltanto un secondo. Un secondo durante il quale lo guarderai. Janek, bisogna che tu sappia. Che tu sia avvertito. Un uomo è un uomo. Ma non è lui che ammazzo. Io ammazzo il dispotismo. Ma certo, bisogna uccidere il dispotismo. Ma io non conosco il Granduca e so che mi riuscirebbe meno facile agire se lui mi stesse seduto davanti. Tu invece lo vedrai da vicino. Da molto vicino. Lo so. D'altronde noi uccidiamo per far sorgere un mondo dove nessuno ucciderà più. Noi accettiamo di diventare criminali. Per far sì che la terra si copra finalmente di innocenti. E se non fosse così? Questo lo sa che non è possibile. Altrimenti Stepan avrebbe ragione. E dovremmo sputare in faccia la bellezza. Forse il Granduca ha degli occhi buoni. E se ti guardasse in quel momento? Non lo vedrò. Perché? Chiuderà gli occhi. La rivoluzione, sì. La rivoluzione per la vita. Per dare... Come cazzo? Per dare una possibilità alla vita, capisci? Sì, e tuttavia noi stiamo per dare la morte. Sei coraggioso, Janek. Tu ridi, ti esalti, vai incontro al sacrificio tutto pieno di fervore. Ma tra qualche ora dovrai uscire dal tuo sogno e agire. Sei bravissima. Ma cazzo, sei tu? Oh, ma non puoi avvisare, ci sto io? Ti sei spaventata per davvero? Scusami, non ti avevo sentita, ero assorto nei miei pensieri. Cioè io entro qua, metto a posto la roba, parlo ad alta voce e tu non mi senti? Certo che sei grave. Proprio così. Da quando è che ti sei messa a recitare? Perché, non ti va? Non mi riguarda. No, forse può divertirmi, sì. In effetti ti si addice. Tu sempre frasi ambigue per ferire, eh? Non essere melodrammatica, i grandi attori non recitano sempre. Sara, hai la coda di paglia. Io sono tuo amico. Penso davvero che tu possa essere una brava attrice. E comunque ti ci vedo molto di più che a studiare filosofia, antropologia, psicologia. Mamma mia! Posso fare tutte e due le cose? Ah, certo, in modo velleitario, piccolo borghese, così, tanto per fare. Alla Donatella. Ma che c'entra? Ce l'hai con lei? Ma proprio no. Però non puoi negare che fa tutto a cazzo. Non è la sola qui dentro, però è irritante. Ma lei vi incasina tutti perché non ascolta i vostri atteggiamenti da liderini. È fica, e sta con chi gli pare. Spero di non ferire la tua suscettibilità femminista se affermo che Donatella non è esattamente Madame de Stael, no. È soltanto una che se ne gira con un cuscino sotto il braccio a collaudare letti straparlando di psicologia. Ah, quindi per te se uno è libera o è cretina oppure troia. No, no Sara, che fai, mica di sui luoghi comuni. No, per favore, dai, non si addice al tuo personaggio di piccola passionaria scesa dall'altipiano che semina lenticchie dietro di sé per ritrovare la strada di casa. Picchi un genio a chiamarti Giuliago! Oh, ma chi ti credi di essere? Sei sempre lì che giudichi, tu sei così, tu sei colì. Ma non ti esponi mai veramente, non dici mai quello che pensi. Sei permalosa. Senti, dai, è vero, vivi nel mondo delle favole o del teatro, se preferisci. Proprio come Picchio. Ma lui è di un vittimismo. Mi annoia questo suo piagnisteo di eterno innocente, lo spontaneismo, l'ingenuità. Ma da te accetto anche le sparate. Sei confusa, ma almeno sei sincera. Ma non sai dire altro. Sarò anche ingenua, come dici tu. Ma in ogni istante della mia vita voglio inseguire un sogno, una passione, un desiderio. Lo scontro è con la mediocrità dei valori borghesi. Per restare vivi non bisogna lasciarsi logorare, perché ci si abitua. E io ho il terrore ad abituarmi. Preferisco l'inferno, star male tutti i giorni della mia vita, ma almeno sentire la mia pelle. Tu parli di niente, tanto per restare nel tuo teatro. Ragioni in termini esistenziali, emotivi, e parti da un equivoco di fondo. I comunisti non credono all'inferno, i comunisti credono al nulla. Mi fai venire l'angoscia. Che è la vertigine della libertà, come certo saprai. La P38 Parabellum non esiste. È un mito dell'autonomia. È una favola del movimento. In circolazione c'è questa. Una pistola semiautomatica calibro 38 Special. Spara, espelle il bossolo, carica una nuova munizione, arma il cane. Non devi fare altro che prendere la mira e premere il grilletto. E avere un obiettivo. E avere un obiettivo, sì. Avanti, prova tu. Qui. Lì è pericoloso, sei troppo vicino. Beh, sei quasi medico, no? Nel caso poi mi salvi. Forza, non fare il Boy Scout, spara. Mancata. Non è la mira che ti manca, è la convinzione, riprova. Bisogna finanziare la lotta, lo so, ma fare una rapina non mi sembra un'azione politica. Invece sparare a qualcuno non ti crea problemi, vero? Non ho detto questo. I tuoi dubbi sono il prodotto di un moralismo ipocrita che attende solo le grandi occasioni per esporsi. Pensi a Sara? Devi tagliare. Non ha le caratteristiche per entrare in clandestinità. Lo so, non è pronta. Ha una visione troppo sentimentale della lotta rivoluzionaria. Presto stabiliremo un obiettivo da colpire. Lo pedinerai per capire quali sono le sue abitudini. Magari non ha neppure una faccia antipatica. Forse ha dei figli. Una casa al mare e una a Roma che si sta comprando con il mutuo. Ha votato per il Partito Comunista alle ultime elezioni, per la prima volta. E si sente coraggioso. Puoi immaginare la sua faccia, i suoi pensieri, i suoi amici, la sua casa. I nemici sono persone comuni. Può essere una brava persona o un criminale, questo non ha niente a che vedere con un combattente. Non bisogna cercare un tornaconto personale. Soddisfare la propria morale, l'odio, la vendetta non hanno niente a che fare con la rivoluzione. Devi avere una visione pura, assoluta. Ti devi liberare dei particolari, della normalità di chi colpisci. Avanti, spara. Chi è? C'è qualcuno? Dove sono finiti i tuoi sogni? Zitta, che ci fai qui? Silenzio anche voi. Smettete. È inverno. Fa freddo. Non potete cantare, voi siete morte stecchite sotto metri di neve. Certi giorni hanno un particolare sapore. Capisci cosa intendo? Ti invade il ricordo di quando per la prima volta hai sentito un suono, un rumore, una luce sfumata abbagliante, non saprei. Va via. Non vedi cosa fare? C'è un mare di orologi rotti. Ore, minuti, mesi, anni. È finito il tempo degli altri. Abbiamo sparato a ognuno di loro. Ma cosa è successo in mezzo? Che cosa è cambiato? Forse niente. I bambini di oggi sentono le stesse cose, ma questo... questo non li preserverà dal diventare come noi, non credi? Non lo so. Stai bene? Mai stato meglio. Anzi, mi preoccupa quando sto bene. E non dovresti. Tu non puoi stare qui. Non so come sei arrivata in questo luogo, ma hai seguito, spiato, sicuro. Meglio, così non devo spiegarti nulla. Ma non ti ho ascoltato. Però sei diverso, non sei più lo stesso. Sei bugiarda. Hai detto un nemico è qualcuno che ti crei dentro, quindi hai seguito i nostri discorsi. Ma ero troppo lontana per sentirvi. Quelle parole le dicevi tu. Io? Tu sei pazza. Ma sì, sparavi agli alberi correndo di qua e di là. Un nemico è qualcuno che ti crei dentro, urlavi. Mi hai fatto paura. Non è vero, piantala. Aspetta, mi sono stanca. Dimmi almeno se tornerai. Non lo so. Ci rivedremo ancora. Quando sarà finito? Nel tuono, tra i lampi, nella pioggia. Quando il tumulto sarà finito e la battaglia vinta e perduta. Sotto il letto? Oh, sul tavolo, non lo so, in giro da qualche parte. Guarda, quando studio vado avanti a wafer, nel sangue c'ho più vaniglia che globuli rossi. Ma qualcosa di salato, no? Aspetta, adesso arrivo, aspetta, eh. Aspetta, aspetta, ho trovato. Salvo, sei salvo, ho trovato formaggini e fette biscottate. Beh, non ti piacciono i formaggini? No. Allora i miei due nasi. Senti, io me ne andrei a casa. Vabbè dai, ma se hai fame facciamo una pasta. Sono stanco, domani lavoro. Non è vero, che ti è successo? Non è così che ti immaginavo. Aspetta, lasciami dire perché. Non voglio sapere niente, lo immagino perfettamente. E invece non hai capito proprio un cazzo. Chi sei tu per giudicarmi senza neanche conoscermi? Senti Anna, non mi interessa, non voglio entrare nelle storie mediocri. Perché hai paura di sporcarti, eh? Potrei contaminare il tuo mondo di belle parole. Potrei infangare il castello dei sogni a buon mercato. Non ho paura. Certo, non senti niente. Te ne stai lì, chiuso fra quattro mura dietro a un microfono, a parlare di niente. A parlare di un mondo ideale inesistente che ti sei inventato. Ma tu non sei un artista. Perché gli artisti veri sono pazzi, muoiono, si ammazzano. Perché mi odi tanto? La tua calma mi fa rabbia. Non sei fico come ti immaginavo, sai, magari sei uno... Con due nasi. Sei uno sfigato, sei un mediocre, sei un poveraccio che nessuno si fila. È proprio così, cosa ti aspettavi? Non lo so! Da bambina aprivo la finestra per far entrare qualche passero. Sbriciolavo un po' di pane sul davanzale e entravano persino i cardellini. E io aspettavo. In silenzio, sotto il tavolo di cucina. E poi li facevi allo spiedo? Sei cattivo. Io stasera speravo, non lo so, qualcosa. Ma perché ti parlo di me? Ecco, ora sei di nuovo più triste. Ti preferisco così, più tenera. Posso tornare domani? Non mi trovi, non ci sarò. Per sempre? Domattina devo prendere un autobus fino al capolinea. Davanti a me ci sarà un uomo che non conosco con il loden verde. Scenderà anche lui. Lo dovrò seguire circa 300 metri. Poi svolterà in una stradina secondaria. O dentro o fuori. Me lo ripeto da giorni. O dentro o fuori. Perché me lo dici? Vuoi che ti fermi? Chi ha deciso di buttarsi via si riprova sempre, lo sanno tutti, anche se ti leggo a letto. Che cosa farai fra un giorno, fra due giorni? È vero, hai ragione. Non cercare di fregarmi, ti ho sentito vivo in un mondo di morti, hai detto così, l'hai detto te due ore fa. Senti, adesso usciamo di qui, andiamo al primo ponte, prendiamo la moto e buttiamo via giù tutto. Sì, mi è compreso. Non mi va più di restare, Anna, o come cavolo ti chiami, sono dei discorsi cretini, idioti, bugiardi. Tu hai 20 anni, ma sei vecchia dentro, anzi, tu sei già morta. Sono contento di non aver visto il tuo nome, di non averti nemmeno visto in faccia. Anzi, lo sai che ora invece lo voglio proprio vedere, il tuo viso, eh? Voglio sapere il tuo nome, non voglio ogni volta che ammazzano, arrestano uno a pensare che forse sei tu. Vieni qua! Non lo fare. Come sei calma? Non sono calma, ho paura. Sono 3 anni che sto con voi, da 2 fabbrico le bombe. Ho fatto del mio meglio. Sicuro, Dora. Sì, ma sono 3 anni che ho paura. Una paura che mi abbandona solamente col sonno e si ripresenta fresca fresca al mattino. Non c'è da vantarsi. Al contrario. Lo sai, anch'io rimpiango la vita brillante. Il vino, le donne, le notti che non hanno fine. Lo avrei giurato, Boria. Ed è per questo che ti voglio bene. Il tuo cuore non è morto. Ascolta. Ci siamo quasi. Ancora qualche secondo. Quanto ci vuole? Non è possibile. La carrozza deve essere già arrivata a teatro. Janek dovrebbe aver già lanciato la bomba. Stepan torna indietro. È successo qualcosa, hanno arrestato Janek, sicuro l'hanno arrestato! Eccolo. Perdonatemi, fratelli, non ce l'ho fatta. Non importa. Cos'è successo? Non importa. Ma a non volte è... all'ultimo tutto crolla. Non è possibile. Ma lascialo stare! Hai avuto paura, Janek? No! Paura no, non hai il diritto. E allora? C'erano dei bambini nella carrozza del Granduca. Bambini? Sì, il nipote e la nipote del Granduca, c'era anche la Granduchessa. Erano un po' troppi, credo, per il nostro poeta. Non potevo immaginare. Hai mai guardato i bambini? Quegli occhi gravi che hanno a volte. Beh, io non ho mai potuto sostenere quello sguardo. Eppure un attimo prima, all'angolo della piazza, ero molto felice. Parola mia, ridevo. Allora mi sono precipitato e proprio in quel momento li ho visti. Non ridevano loro, stavano dritti, impettiti e guardavano nel vuoto. Ho visto solo loro. Allora non so cosa mi sia successo, ma mi sono sentito il braccio fiaccare, le gambe mi tremavano. Un attimo ed era troppo tardi. Dora, ho sognato o in quel momento suonavano le campane? No, non hai sognato. Guardatemi, fratelli, guardami, Boria. Io non sono un vigliacco. Non mi sono tirato indietro. È che non me li aspettavo. È successo tutto troppo presto. Quei due visetti seri da una parte, nella mano quel peso terribile, e su di loro. Che avrei dovuto lanciarlo così, dritto. Bene, me la sono sentita, non ce l'ho fatta. Aiutatemi. Ho pensato che vi dovevo una spiegazione, che eravate i miei soli giudici. Che soltanto voi potevate dirmi se avevo ragione o torto, non potevate sbagliare. Ma non dite niente. L'organizzazione ti aveva ordinato di uccidere il Granduca. È vero. Ma non mi era stato detto di assassinare dei bambini. Janek ha ragione. Doveva ubbidire. Questo non era previsto. Dora? Avrei rinunciato anch'io. Non posso consigliare ad altri quel che io stessa non farei. Voi non vi rendete conto di ciò che significhi questa decisione? Aspetta. Saresti capace tu, Stepan, di sparare a bruciapelo un bambino? Certo, se l'organizzazione me lo ordinasse. Perché chiudi gli occhi? Ho forse chiuso gli occhi? Sicuro. Apri gli occhi. L'organizzazione perderebbe potere e influenza se permettesse un solo istante che i bambini fossero straziati dalle nostre bombe. Non ho il cuore abbastanza tenero per queste sciocchezze. Il giorno che ci decideremo a dimenticare i bambini, allora sì che saremo i padroni del mondo e la rivoluzione trionferà. Quel giorno la rivoluzione sarà odiata da tutta l'umanità. Poco importa, se noi l'amiamo tanto da imporla a tutta l'umanità. E se tutta l'umanità rinnega la rivoluzione? E se tutto il popolo per il quale lotti rifiuta di vedere ammazzare i suoi bambini? Dovremmo forse colpire anche lui. Sicuro, se necessario. E finché abbia capito, anche io amo il popolo. Non è questo il volto dell'amore. Ma no, e chi lo dice? Io, Dora. Sei donna e ti fai un'idea infelice dell'amore. Me ne faccio un'esatta della vergogna. Bambini! Soltanto questa parola avete sulla bocca. Perché Janek non ha ucciso quei due, migliaia di bambini russi moriranno di fame ancora per parecchi anni. Avete mai visto dei bambini morire di fame? Io sì. Vivete forse per il solo presente? E allora scegliete la carità, che guarisce il male giorno per giorno, ma non scegliete la rivoluzione che vuol guarire ogni male, presente e futuro. Anche nelle stragi c'è un ordine, ci sono dei limiti. Non ci sono limiti! La verità è che voi non credete alla rivoluzione. Per sapere chi di noi due avrà ragione, servirà il sacrificio di 3 generazioni. Quando io e te saremo polvere nella polvere, questa pioggia di sangue sarà assorbita dalla terra. Altri uomini verranno allora. E li saluto come fratelli. Io sono quelli che vivono oggi sulla terra con me, che amo. E sono loro che saluto. Ah. Che cazzo entri mentre sviluppa? Hai letto che è successo? C'ero anch'io, eh? Sto stampando i rullini di ieri. E falli sparire, così ci metti nei casini. Fabio era pieno di infiltrati. E poi dov'eri quando ha iniziato a piovere? T'ho perso. Sono corso dietro al gruppone che si è staccato dal corteo per andare a Piazza del Gesù. Poi sono partite le Molotov e la polizia ha cominciato a sparare lacrimogeni. Le foto! Con il fuoco e il fumo sono impressionanti. Ho sentito dei colpi di pistola, urla, botti. Ma il fumo ha riempito l'aria e non si riusciva a vedere più niente. Dicono un sacco di stronzate. Ho visto una scena incredibile. un compagno è uscito dall'armeria con un fucile. Lo carica, attraversa la strada, appoggia la canna sul muretto e scarica tutti i colpi contro il carcere al di là del Tevere lì di fronte. Non l'ho neppure fotografato, sono rimasto a guardare un film. Sarà pure un film, ma quelle non le dai ai giornali, Fabio! No, però averla fatta! Oh, c'era pure uno con un fucile da sub, preso sempre all'armeria, che ha tirato una fiogenata verso la polizia. Zitto, zitto, aspetta! Sempre... Picchio, picchio tu provo, ma io non posso più difenderti se tu te ne vai in giro addirittura alla radio a sputtanarci. Io ti conosco, ma gli altri compagni no. Sì, venite avanti voi ignoti col viso coperto e abbiate il nostro grazie. Senti, vuoi prenderci per il culo? Fai pure. Ma ogni tanto parla come gli altri. Lo vuoi capire che era un inferno? A un certo punto ci siamo trovati davanti un mare di carabinieri armati soltanto di mitra e giubbetto antiproiettile. Solo allora, cazzo, solo allora io e gli altri compagni abbiamo deciso di sparare. Bella stronzata. Avete mandato a puttane tutta la manifestazione. Oh, hanno arrestato Nespola, che stava lì, non faceva niente. Lasciamo a dopo le valutazioni. Io ti dico solo che era necessario. Ti senti come parli, Andrea? La gente è incazzata, Picchio. Ma chi non è incazzato? Oh, se tutti i 100.000 compagni del corteo si dovevano sfogare in quel modo, non sarebbero bastate le macchine di tutta Roma. Ma senti, ti ragioni come questo qua. Un corteo grande, imponente. È stato distrutto, snaturato. È vero. Distorto dai suoi obiettivi reali, da gruppi di provocatori che hanno causato incidenti a catena. È vero, è andato così. Era un compagno, adesso è un traditore venduto. Andare a una manifestazione armati è un modo per sentirsi vivi odiando. Senti, Picchio, che vuoi fare? Il poeta? Il profeta pacifista? Beh, fai pure. Io però ti dico un'altra cosa. Noi vogliamo cambiare questa merda di società adesso, non tra 60, 70, 80 anni, sai perché? Perché allora non ci saremo più. Ma te la prendi con un amico, una persona libera? Un amico, una persona libera, ma questa è una merda! A questo se gli sparano alle gambe è già un regalo. Allora che è cambiato dalla guerra di Spagna, eh? Quando i partigiani comunisti ammazzavano gli anarchici. Ti prego, Picchio, non ci fare la lezioncina. Siberia! Siberia! Guarda che non c'è da cazzeggiare, Icaro. È così. Questo è stalinismo puro, la logica dei carri armati a Praga. Hanno fermato un mare di compagni ieri. Ne arresteranno almeno la metà. Hai sparato a qualcuno? Non lo so, c'era molto fumo. Hai rischiato di farti prendere con la pistola? No, Giuliano, quando il corteo si è diviso, le cariche sul ponte sono ricominciate, noi ci siamo divisi. Io la pistola l'ho ficcata in borsa a Sara, che è scappata via, tanto i celerini venivano dietro a noi, mica dietro a lei. E se la perquisivano in una retata? Vi metteva tutti nella merda. Guarda che si è imbucata subito nei vicoletti. Bravi, continuate a giocare pure all'insurrezione, alla guerriglia. Che imbecilli velleitari che siete. Hai capito che la devi finire con lo spontaneismo? Oh, parli proprio come un funzionario del PC. Tanto la matrice è quella. Che cazzo ti fotografi? Le vostre facce. Cronaca della fine del movimento. Sara, dov'è la pistola? Dov'è la pistola? Dov'è la pistola o come sta Sara? Ma che cazzo succede? Parlate tanto di cambiare i rapporti tra di noi, ma tra di noi non succede niente. Che cosa stiamo aspettando? Le svolte collettive? Cominciamo in prima persona a sconvolgere questi rapporti. Tra di noi! I servizi d'ordine dell'università erano in continuo collegamento. Avevano le moto, le ricetrasmittenti. Noi ci sentivamo protetti da loro, guidati. Però a un certo punto il corteo si è fermato nel silenzio più assoluto. Forse 5 minuti. Sapevamo che di lì a poco sarebbe scoppiato il casino, ma non mi aspettavo quello che è successo. Ma tu perché non mi hai detto che volevi sparare? Oh, ma mi vuoi rispondere? Io stavo con te. Non dà spiegazioni il superuomo, eh? Sei un buco nero, sembri tuo fratello. Che cazzo c'entra lui? Se hai paura la prossima volta alle manifestazioni, non ci venire. Ma mi hai lasciata là, cazzo! Io non le conosco quelle stradine. Erano chiuse dalle auto blindo della Celere. Ho suonato a tutti i portoni, nessuno ti apre, nessuno ti risponde. E alla fine ho iniziato a correre, non sapevo più dov'ero. Tu dovevi restare con me. Hai capito? Perché non sei rimasta con me? Anche io ho corso, non sapevo più dov'ero. Poi a un certo punto ho alzato gli occhi e mi sono trovata sotto casa dei miei. E cazzo, per una volta sono stata contenta di essere lì. Anche se stamattina poi... Già il fugone, no? Con mia madre, con quella vocina che fa finta che io sia ancora una bambina che mi vuole preparare il caffè. Sara, la pistola. Non ce l'ho, l'ho buttata nel fiume. Ottimo, che ti avevo detto? Adesso ne rimedite un'altra. T'ha visto qualcuno? No. Sei certa? T'hanno seguita? No, mi pare di... No, o mi pare! Ma la lasci stare! Senti, non l'ho buttata. C'era troppa gente, ho avuto paura. L'ho portata nel posto dove faccio le prove, era vicino. Quindi? Quindi stava lì. Stava? Stamattina sono tornata e non c'era più. Qualcuno l'ha trovata, cazzo. Senti, non è detto, forse è casuale, però è troppo pericoloso per noi. E per te. Mm? Devi tornare dove fai le prove. Fare come se niente fosse successo. Chi l'ha presa avrà dei sospetti, tu devi capire chi è. Voi la dovete smettere di dare ordini, decidere per gli altri. Avete messo nella merda Sara con la vostra pistola del cazzo. Prima la lasci con una P38 nella borsa, in mezzo ai celerini, l'eroe. Adesso deve anche obbedire alle tue strategie da burocrate del cazzo della rivoluzione e pararvi il culo a tutti. Ma vaffanculo! Senti, stronzo, tu hai veramente rotto i coglioni. Se non ti spacco la faccia solo perché sei un tossico col cervello andato, spappolato. Togli le mani addosso, testa di cazzo. Picchio, te ne devi andare, capito? Via, vattene! Sei finito, Picchio, Andrea, tu non servi a niente. Vaffanculo! Non servi a un cazzo. Vieni con me, lasciali perdere questi stronzi, vieni con me! Ma che cazzo fai? Sparisci! Tanto la guerra è finita, la rivoluzione è finita, abbiamo vinto! Quello non va lontano. Neanche a sporcarsi le mani. Uno di questi giorni si toglie dal cazzo da solo. Non sono cattivo. A Picchio piace sentirsi infelice, lo fa sentire migliore degli altri. Lo conosciamo, farà un gesto teatrale. Una grande uscita di scena nel suo stile abbastanza retorico. Sto male. Sto male. Hai paura? Va bene, va bene. No, non va bene. Quei pensieri. Che pensieri? Lenti, tutti con lo stesso tono, come un rullo che avanza. Tu non puoi capire, io sento la mia voce, ma non riprende mai fiato e schiaccia tutti gli altri pensieri. Allora, non pensare a niente, non pensare a niente, dimmi un'immagine, la prima che ti viene in mente. Non mi viene. Prova. Non mi viene, sto male. Prova lo stesso. Un sottomarino. Un sottomarino. Molto piccolo. Sì, lo vedo. È posato sul fondo, immobile. Sono tutti morti. Ma che morti, Anna? Non lo senti? Stanno dormendo, stanno russando, hanno viaggiato per 20.000 leghe. Sì, è la benzina. Ma che benzina? È un sottomarino atomico. E allora perché sta fermo? Stanno dormendo. In quanti sono là dentro? Allora dai, buttati, di qualcosa. Due. Due, perfetto. È già tre volte che fanno il giro della Terra. Lui vuole andare da est verso ovest, mentre lei vuole andare da nord verso sud. Il giro da nord verso sud non si può fare, c'è il polo. Ora stanno salendo a galla. Hanno fame, devono fare delle provviste. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda come cambia il colore del mare. È tutto blu, filtra il sole. Scommettiamo. Che cosa vedono appena sono su? Un relitto, una petroliera abbandonata. Acqua. Il mare in tempesta. Balene. Tante balene azzurre tutte intorno al sottomarino. Le balene nuotano tutte in una direzione e loro decidono di seguirle. Non subito, in realtà prima scazzano un po', però poi dopo decidono di seguirle. Non arriveremo mai da nessuna parte, dice lei. Dice lei. E invece, all'orizzonte, appare un'isola. Le balene spingono il sottomarino fino quasi a riva. Sembrano più delfini che balene. Finalmente, dopo mesi di navigazione, escono dal sottomarino. Non sono nemmeno più abituati alla luce, il sole quasi li acceca. Allora si sdraiano a riva, si mettono ad aspettare con gli occhi mezzi chiusi, si addormentano e al loro risveglio... Sono accerchiati dai cannibali. Non trovano più il sottomarino. Hanno una strana sensazione, forse la stessa, però nessuno ha il coraggio di dirla all'altro. È come se il sottomarino fosse sparito da molto tempo. È come se il tempo stesso li avesse assorbiti nella sua onda fluttuante. Anna, ma che dormi? No, continua. Sembra un sogno, una favola. E la voce pesante? Se parli non la sento. È quasi mattina. Eh no, quelli sono i lampioni, l'alba è ancora lontana. Una cosa buona dell'inverno, 14 ore di buio, vorrei essere un orso, dormire 6 mesi, 1 anno, pure 2. Esiste la cura del sonno, no? Cioè, praticamente sei in coma. Meglio, faccio solo incubi. Allora sei ancora viva. Non lo so, se penso a me domani o fra 6 mesi, io fra 10 anni non ci sono, non vedo niente, bianco totale. È un'immagine bianco totale, è una sensazione, è una luce abbagliante, è nebbia, è latte. Lascia perdere. Ma perché il sottomarino sparisce? Non si sa. All'improvviso scoppia un temporale e loro iniziano a correre bagnati verso la foresta. Ci sono degli alberi giganteschi, mai visti, e loro non si fermano. Continuano a camminare sempre più bagnati nella foresta e a un certo punto vedono una grotta. Entrano. Si accovacciano stretti l'uno all'altro sulla roccia coperta di muschio e fuori ci sta il vento fra le foglie, l'acqua che scroscia e poi all'improvviso un lamento nel buio. Qualcuno ferito? Non lo sanno. Restano lì immobili con il cuore a mille e poi all'improvviso non sentono più niente di nuovo. Silenzio, pioggia, vento. No, sentono ancora piangere. È vero. E ora arriva più forte uno strano suono acuto. Non è vicino, forse la grotta è molto lunga. Allora legano il bandolo di un gomitolo ad un albero ed iniziano la discesa. Un gomitolo da dove salta fuori? Ce l'aveva lui, è uno previdente, che ti credi? Anzi, si è portato dietro pure una torcia elettrica. Sì, e due panini. Perfetto, un gomitolo, una torcia elettrica e due panini. Ora camminano per alcuni minuti in silenzio, impauriti, attenti a non cadere perché è molto scivoloso. E a questo punto vedono una scena incredibile. Un piccolo fuoco. Una strana figura umana sta tracciando sulla parete di roccia delle strane figure con qualcosa che tiene fra le dita. E cosa sono? Bufali, cavalli meravigliosi, rossi, ocra, neri. Poi a un certo punto di nuovo quel lamento. La mano si ferma, si delinea un profilo, si china. Raccoglie veloce una specie di bambino minuscolo. Lo allatta, lo calma con dei suoni intermittenti, delle vibrazioni lunghe, dense. Non sono proprio delle parole, è quasi un canto. Un canto ipnotico. Sai, se parli vedo anch'io tante cose. Anche quando ti ascoltavo alla radio mi facevi questo effetto. Cioè, dormi? No, però mi si chiudono gli occhi mentre racconti. La voce, il bambino. Forse per qualche secondo ho sognato. L'immagine è una ragazza che mi viene incontro, o forse ero io, che ha come un ramo che le esce da qui. Ah, strano. Sì, ha un ramo di pesco innestato nel petto. Ma tu pensi davvero che i disegni nella caverna li ha fatti una donna?